Io mi sto occupando in particolare del tema dell'intelligenza artificiale applicata alla cosiddetta prevenzione. C'è stato il 28 aprile scorso un rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Il 28 aprile era la giornata mondiale su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo rapporto ha trattato il tema dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale proprio in questa direzione, vale a dire per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei lavoratori. Il rapporto dell'OIL ci dice che ci sono molte opportunità e ci sono anche rischi. Le opportunità le sto studiando a livello nazionale e mi sono reso conto che esiste un mercato in crescita, produttori di tecnologie digitali, di intelligenza artificiale che hanno come obiettivo quello della salvaguardia della salute delle persone che lavorano. Posso fare degli esempi, dal casco intelligente al badge per i cantieri, ai microchip sui dispositivi di protezione individuale che sono le imbragature per evitare la caduta dall'alto, piuttosto che i guanti, le scarpe che rappresentano quei dispositivi di protezione individuale che con i microchip possono essere monitorati per sapere se vengono prelevati dal magazzino ma indossati dal lavoratore, ma ancora indossati e utilizzati nel modo corretto, piuttosto che l'airbag di caduta oppure la segnalazione di incidente per uomo isolato, per uomo a terra quando si lavora in solitudine in luoghi lontani, di manutenzione ad esempio dei tralicci dell'elettricità e dell'energia in generale. Quindi potrei fare moltissimi esempi di un mercato che sta producendo questi beni. Si tratta di favorire l'utilizzo di questi beni, l'acquisto da parte delle imprese, e questo acquisto a mio avviso va agevolato attraverso un utilizzo delle risorse dell'INAIL, che risparmia molti miliardi ogni anno, fermo restando le riserve tecniche, perché l'INAIL ha un compito assicurativo, però un'altra parte più cospicua dell'attuale che viene devoluta per i bandi ISI e per la diminuzione dei premi assicurativi nel caso in cui le aziende non abbiano infortuni, incidenti mortali e non mortali e malattie professionali, un'altra parte accresciuta va, secondo me, destinata per l'acquisto di queste strumentazioni. Poi questo rapporto mette anche in evidenza i rischi, naturalmente, perché le tecnologie, se hanno l'uomo che governa è un conto, se la tecnologia che domina l'uomo è un altro conto. Semplifico, ovviamente. Quindi bisogna evitare il tecnostress, bisogna evitare l'invadenza della tecnologia nella privacy. Un conto avere, come dispone l'accordo della Saipem con CGIL e CISL e UIL, di una strumentazione di visori ottici nei punti cruciali esposti a maggiore rischio, che ha come obiettivo quello della prevenzione, un altro conto è quella della sanzione nei confronti dei lavoratori. Qui stiamo parlando di prevenzione, e quindi è molto importante ovviamente che l'utilizzo di questi dispositivi per prevenire sia concordato con le organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro. Quindi mi pare che questo sia un tema molto importante. So che alla fiera di ambiente lavoro abbiamo degli stand di produttori appositamente dedicati a questo tipo di strumentazione digitale di intelligenza artificiale. La politica e il legislatore riesce a stare al passo, almeno in Italia recepisce queste innovazioni? Secondo me il legislatore è ancora un po' debole su questi argomenti. Intanto, quando noi vediamo che il mercato delle produzioni digitali e di intelligenza artificiale legate alla prevenzione si sta ampliando, ogni giorno viene fuori una innovazione, bisognerebbe aggiungere che sarebbe opportuno collegare queste innovazioni in termini di sistema, come è stato fatto per i telefonini. Cioè noi non possiamo avere software diversi per ciascuna di queste strumentazioni. Se non dialogano fra di loro non si fa sistema. Noi non possiamo pretendere che un datore di lavoro adotti un sistema e una app per la caduta dall'alto, un'altra per il badge di cantiere, un'altra per il casco intelligente, un'altra per i dispositivi di protezione, un'altra web app per vedere se vengono utilizzati correttamente. Bisogna che ci sia un sistema. I produttori questo problema se lo debbono porre, gli studiosi ci stanno pensando ad un sistema che sia in grado di colloquiare. Per quanto riguarda le legislazioni, attualmente noi abbiamo a livello europeo prima al mondo una legislazione, l'AI Act, che ha in qualche modo dato delle linee guida che andranno applicate nei vari paesi. In Italia il governo, su sua iniziativa, ha scritto una proposta di legge che è stata varata dal Senato il 20 marzo scorso e attualmente in discussione alla Camera, ma io la trovo un pochino debole e contraddittoria, perché sono 28 articoli e l'articolo 11 si parla correttamente di dispositivi che debbono intervenire per la tutela e la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei lavoratori. Poi all'articolo 23, quando si distribuisce il miliardo, che è la dotazione di questa proposta di legge, si parla di cybersicurezza, di telecomunicazione, di 5G, ma guarda caso non si parla di dispositivi di prevenzione per la salute e la sicurezza. Allora io dico, non è possibile, come si dice, una dimenticanza di questo genere. Io spero che alla Camera ci sia una correzione, cioè queste risorse vadano in varie direzioni senza escludere ovviamente la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, altrimenti noi corriamo il rischio, come si dice, di commemorare le vittime e gli infortuni, ma di non fare le cose giuste per prevenirli. La parola chiave è prevenzione. Noi paghiamo 3 punti di prodotto interno lordo ogni anno per riparare il danno che deriva da una morte, da un infortunio, da una invalidità transitoria o permanente o da una malattia professionale. E guardi che gli infortuni sul lavoro mortali crescono: 1041 nel 2023, 1090 nel 2024, primi 3 mesi del 2025, più 9% rispetto ai primi 3 mesi del 2024. Che cosa aspettiamo? Bisogna che le legislazioni siano coerenti, altrimenti si dice ma non si fa.